Ciao amici, io sono Morris. Sono uno degli speaker di Runtime Radio. O almeno così mi piace credere. Sì, sono uno dei partecipanti a Runtime di notte. Perché mi son detto, ehi, mettiamoci in gioco. E allora eccomi qui. Ma come ho conosciuto Runtime di notte? Beh, in realtà ho conosciuto Simone. Ho conosciuto lui tramite altri podcast, tramite alcune sue comparsate in altri podcast. E da lì ho detto, boh, la voce di Simone è assurda, devo seguire quest'uomo. E ho deciso di seguirlo su Runtime Radio. Quindi lì poi ho conosciuto archeologia videoludica. Io, da appassionato di videogiochi fin da quando sono piccolo, ho detto fammi ascoltare un po' questo podcast, ed eccomi qui che poi sono finito a chiacchierare la notte con loro, ma soprattutto con voi amici di Runtime Radio. Fare altri progetti, avere altri progetti per Runtime Radio, beh sì, mi piacerebbe, e qualcosa in mente già c'è, perlomeno nella mia. Perciò, chi lo sa, vediamo un po' cosa ci porterà il futuro. Per il momento restate comunque sempre sintonizzati su Runtime Radio. È la vostra web radio, ragazzi.